Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi con me, poi lunedì, tornerà Sebastiano Barisoni. Il 349-238-6666, come sempre, per i vostri sms. Di che cosa parleremo oggi e che cosa prevede naturalmente questa giornata economica, economico-finanziaria? In apertura partiremo da quella che è stata anche una vostra sollecitazione, se vogliamo, nella giornata di ieri, durante la trasmissione di ieri. In molti ci avete scritto a proposito di questa proposta bocciata ieri dal Parlamento del Movimento 5 Stelle di abolizione di Equitalia. È un'idea della quale abbiamo parlato ieri, sono arrivate le vostre idee, i vostri sms. Vi invito a continuare a scriverci sia via sms sia, se volete, sul mio al mio profilo Twitter Simone Spezia a proposito di questo tema. Il ragionamento è quello: abolire Equitalia sì, va bene, puoi anche abolire Equitalia, ma non è invece il caso di cambiare le regole su come si agisce dal lato della riscossione delle tasse? Il punto mi sembra esattamente questo. Ne parleremo con un collega del Sole 24 Ore per capire appunto anche come sta cambiando e come è cambiata in questi anni, a fronte dei segnali di crisi, anche il sistema di riscossione, naturalmente in parte grazie ad impulsi governativi, non solo di questo governo naturalmente, quindi non si sta facendo nessuna celebrazione di nessun tipo. Parleremo ovviamente di quella che è un po' la notizia del giorno, di questa giornata economico-finanziaria, ed è il passaggio di Indesit della famiglia Merloni, verrà venduta agli americani di Whirlpool. Anche qua sta partendo già il dibattito, un altro pezzo, un altro marchio storico dell'Italia che se ne va. Vedremo di approfondire soprattutto il punto di vista dello Stato questo settore, il settore dell'elettrodomestico, che è uno di quelli che la crisi l'ha sofferta di più. Certo, i ragionamenti su questo tema, su quanti pezzi dell'Italia, aperte virgolette, se ne stanno andando, c'è anche da valutare quanti pezzi d'Italia acquistano all'estero. Se considerate che solo un paio di giorni fa Gitec, la ex Lottomatica, ha lanciato un'offerta da 4 miliardi di dollari per comprarsi un'azienda americana, magari non farà lo stesso effetto come un'impresa industriale pura come è Indesit, che viene acquistata dagli americani, però naturalmente anche questi sono segnali importanti. E poi bisogna vedere che cosa farà Whirlpool degli stabilimenti Indesit in Italia, perché poi il tema mi sembra essenzialmente quello. E ci occuperemo anche noi, come ha fatto Oscar Giannino, della riforma del terzo settore annunciata ieri dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e lo faremo con una collega di Radio 24 che però ha scritto un libro molto interessante e proprio dedicato al terzo settore, che si intitola L'industria della carità. Quindi, come vedete, Valentina Furlanetto, come vedete, molto puntato anche sui temi economici del terzo settore. Naturalmente vedremo di occuparci, almeno parzialmente, anche di Ilva. Le notizie in breve di oggi. Chiamato all'ordine da qualcuno, non ho dato i mercati. Allora, i mercati sono stati particolarmente positivi per tutto il giorno, adesso stanno andando verso una chiusura sui minimi, comunque positivi. FTSE MIB più 0,64%, FTSE All Share un guadagno dello 0,6%, Parigi sale dello 0,34%, Francoforte dello 0,03%. e Londra guadagna lo 0,19%, con l'America lievemente negativa, meno 0,16% sul Dow Jones e meno 0,34% sul Nikkei, meno 0,09% sullo Standard & Poor's 500. Tutto questo, questi rialzi, anche se insomma non particolarmente esaltanti, anche sulla scorta delle rassicurazioni che sono arrivate dal governo portoghese sulla solidità di Banco Espirito Santo, che è stata presa anche come una rassicurazione. L'idea è: interverremo se c'è bisogno. Le materie prime, innanzitutto l'oro in rialzo dello 0,2% a $1,388,99 l'oncia. Petrolio in lieve calo dello 0,9%, $102,04 al barile per quanto riguarda il WTI, il petrolio quotato a New York, è a $108,06 al barile il Brent. Il tasso di disoccupazione in Grecia continua lentamente ma costantemente a diminuire. Lo scorso mese di aprile, secondo i dati ufficiali dell'Istituto di Statistica Ellenico, è sceso dello 0,2% rispetto allo stesso mese del 2013. È comunque al 27,3%. Il calo è di appena 26.900 unità rispetto all'anno prima. La popolazione economicamente inattiva è di 3.370.000 persone, i disoccupati sono 1.300.000. Per quanto riguarda l'Italia, il Tesoro ha venduto tutti i 7 miliardi e mezzo di BTP offerti in asta oggi, un tasso sul triennale appunto che segna il nuovo minimo record allo 0,84%, spread intorno ai 170 punti. La Commissione europea ha dato il via libera al programma operativo dell'Italia su Garanzia Giovani. Con l'approvazione arrivata oggi, la prossima settimana arriveranno i primi 11 milioni di euro, l'1% del totale del piano che assegna all'Italia 1,1 miliardi di euro da spendere fino al 2018. Solo Italia e Francia hanno consegnato a Bruxelles i programmi operativi. Ci sono i dati di Prometeia. I disoccupati salgono a 3,2 milioni, ma il ritmo rallenta nel primo trimestre, secondo Prometeia. Nel 2014 prevede questo centro studi di Bologna una crescita dello 0,3%, se tale possiamo chiamarla. Ci sono i dati della Caritas. La povertà in Italia non solo è aumentata quantitativamente, ma ha anche allargato i propri confini, toccando segmenti che nel passato erano ritenuti poco vulnerabili. Il centro-nord, le famiglie con due figli, i nuclei con capofamiglia di età inferiore a 35 anni, le famiglie con componenti occupati. Tutte cose che abbiamo visto sulla nostra pelle, sulla nostra carne, sulla nostra pelle, sulla carne del paese, naturalmente, che lì la Caritas certifica. 4,8 milioni di poveri raddoppiati dal 2007. E Caritas insiste, serve un reddito di inclusione sociale. Ancora sull'Italia, è stato pubblicato il decreto la settimana scorsa, un paio di settimane fa, il decreto che contiene anche il cosiddetto taglia bollette. Ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, adesso c'è il lavoro delle Camere, naturalmente. Ci sono misure come lo spalma incentivi per tagliare del 10% le bollette elettriche delle piccole e medie imprese. Si punta a garantire un risparmio complessivo di 1,5 miliardi di euro, ma a quanto pare qua dentro c'è della roba che penalizza fortissimamente i cosiddetti energivori, e in particolare chi la produce l'energia e poi se la riutilizza. È il caso delle cartiere. Abbiamo raggiunto il presidente di Assocarta, Paolo Culicchi, che ci spiega perché. Nel provvedimento del cosiddetto decreto tagliabollette, all'articolo 24, si viene a penalizzare anche la nostra industria, non solo la nostra industria, ma tutti coloro i quali autoproducono energia elettrica e l'autoconsumano. Fino a ieri, fino a oggi praticamente, non era aggravata questo consumo di energia da oneri particolari, assolutamente, in nessun paese d'Europa. Questo deriva anche da una ricerca che noi abbiamo fatto in modo da essere documentati. Improvvisamente in questo decreto taglia bollette, cioè che deve tagliare del 10% i costi energetici per le piccole e medie industrie, vengono reperite le fonti per finanziare appunto questa riduzione attraverso una tariffa applicata anche all'autoconsumo di energia elettrica, quello che finora ne era completamente esentato. Tale tariffa, che è pari diciamo al 5%, almeno attualmente al 5%, così prevede il decreto, di quelli che sono gli oneri di sistema che si applicano a qualsiasi forma di energia che viene venduta, dovremmo quindi gravare ulteriormente quelli che sono diciamo i costi nostri energetici per la parte che viene acquistata, non già paghiamo gli oneri, ma per quella autoprodotta che ne erano esenti vengono a essere applicati anche questo ulteriore direi tassa, alla quale viene ad incrementare ancora quello che è direi il differenziale che oggi si paga tra la corrente elettrica in Italia e quella dei paesi vicini. Se dobbiamo essere ulteriormente penalizzati dai costi energetici che già sono superiori del 30% a quelli dei paesi circostanti in Europa, allora a quel momento lì chiaramente andremo in una difficoltà estrema, cioè anche non saremo più competitivi nell'export e vedremo anche direi sicuramente la chiusura di tanti stabilimenti. Insomma, preconizza Assocarta la chiusura di stabilimenti nel caso il decreto passasse così. Di Indesit abbiamo detto, la famiglia Merloni ha venduto a Whirlpool il 60,4%. Oggi ci sono anche questioni che riguardano Alitalia, perché c'è un tavolo con i sindacati che rischia di durare a lungo. Alle 16.30 è iniziato anche quello col ministro del lavoro Giuliano Poletti, si sta ragionando appunto degli esuberi. Il ministro dei trasporti Maurizio Lupi ha messo una deadline, risposta definitiva delle parti deve arrivare entro domani alle 11, quindi prevediamo, immaginiamo come spesso succede, una notte di trattative. Noi vogliamo che arrivi una risposta chiara e definitiva tra azienda all'Italia e lavoratori nella giornata di domani, in modo che la prossima settimana si possa chiudere definitivamente anche le altre partite che sono aperte, che voi sapete sono quelle ovviamente legate alle banche, legate ai soci e al contratto che le imprese all'Italia e Etihad dovranno scrivere. Io credo che si è lavorato bene fino ad oggi, non vedo perché non si possa chiudere positivamente, o se ci saranno dei valichi insopportabili ognuno dirà la ragione per cui ha scelto una strada piuttosto che l'altra. Ed eccoci col primo tema di questa giornata, ma prima un paio di risposte SMS che arrivano al 349-238-6666. Un ascoltatore ci fa notare a proposito del tema Whirlpool che acquista Indesit, si citava l'esempio di G-Tech che ha appena fatto un'offerta a quanto pare per un grande gruppo americano per 4 miliardi di dollari, ci scrive un ascoltatore, tra gli anni 70 e 80 l'Inghilterra voleva occuparsi solo di terziario, è una scemenza, traduco io, così scrive l'ascoltatore, stiamo perdendo la manifattura, amen. Sul fatto che stiamo perdendo la manifattura, insomma, cioè dire, avrei qualche dubbio, e le ricorderei anche tutte le acquisizioni che negli anni ha fatto per esempio Luxottica o ha fatto Campari proprio negli Stati Uniti. Certo, stiamo parlando di un settore che ha sofferto moltissimo, quello del bianco. Ci arriveremo più avanti. Comunque, il tema e il ragionamento c'è. Non male la battuta dell'altro ascoltatore a proposito della questione, delle questioni energetiche di cui si parlava prima. Gli italiani diminuiscono l'uso di energia. E qual è il problema? Aumentiamo le tariffe e i conti tornano. Ci manca solo questa. Mannaggia a me che l'ho letto e magari la prendono sul serio. Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, ciao, bentornato. Ciao, buonasera. Allora, con te vogliamo parlare di una cosa sulla quale ci hanno sollecitato molto gli ascoltatori ieri, perché ieri era in discussione in Parlamento una proposta del Movimento 5 Stelle, e questa proposta è una proposta di abolizione di Equitalia. L'ipotesi era di trasferire all'Agenzia delle Entrate le funzioni di riscossione. Si parla del fatto che è doveroso sopprimere Equitalia e assegnarne le funzioni all'Agenzia delle Entrate, perché ci sono strumenti vessatori nei confronti di imprese, artigiani e famiglie. Tra le altre proposte si citava l'ipotesi che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturate fino alla data di entrata in vigore della legge sono considerati estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor, lo ricordiamo 0,303%, a 12 mesi. Allora, Salvatore, ieri si è un po' discusso, no, su questo tema con gli ascoltatori, e io dicevo il problema non è Equitalia, l'entità Equitalia, perché la riscossione la puoi affidare a chi ti pare, ma se le regole le tieni come sono, e sono delle regole vessatorie dal lato della riscossione, chiunque riscuota applicherà quelle regole vessatorie, mi sbaglio? No, assolutamente no. È così, tra l'altro la proposta del Movimento 5 Stelle, se ricordo bene, anzi l'hai detto tu ora, quindi ricordo bene, prevedeva di attribuire all'Agenzia delle Entrate la funzione di riscossione, il che secondo me avrebbe, come dire, a sua volta determinato ulteriori problemi, perché diciamo nelle mani di una stessa entità, di uno stesso organismo, l'Agenzia delle Entrate, venivano a concentrarsi due attività che poi così affini non sono, cioè da un lato il potere di accertare l'evasione, le imposte non pagate, cosa che fa o dovrebbe fare l'Agenzia delle Entrate, e il potere di andare a riscuotere. È vero che in alcune parti del mondo, vedi gli Stati Uniti, queste due funzioni sono unite, però mi sembra che la situazione italiana sia leggermente diversa, che l'Agenzia delle Entrate abbia rispetto all'Agenzia delle Entrate americana poteri diversi, quindi io personalmente non avrei visto di buon occhio, diciamo, un organismo, un ente come l'agenzia che acquisiva così tanti poteri complementari tra di loro. Anche perché, aggiungo da questo punto di vista, tanto si sta ragionando, no, sui poteri dei cosiddetti alti burocrati, tu ti ritrovi a mettere nelle mani di un capo dell'Agenzia delle Entrate, no? Esattamente, esattamente. Come no. In realtà poi è stato fino adesso. Come è un po' stato fino adesso. No, tra l'altro devo dire che poi in realtà l'Agenzia delle Entrate è azionista di maggioranza di Equitalia, quindi una connessione tra i due come dire, organismi già esiste nei fatti. Però forse per capire bene e per cogliere davvero il senso di questo problema bisogna anche guardare un pochino al passato, no? Noi, insomma, nel 2006 c'è stata una riforma. Prima avevamo un sistema di riscossione privatizzato, cioè lo Stato di fatto lo appaltava ai concessionari della riscossione, che in genere erano emanazione delle banche. Era un sistema che non funzionava, era un sistema che determinava, che costava tantissimo e che determinava enormi problemi. Ricordo che allora la percentuale di incassato, di riscosso sulle somme accertate non superava il 2-3-4% all'anno, quindi diciamo si accertava un'evasione di 100 e alla fine di tutto il percorso di incasso si portava a casa 2-3-4. Adesso su che livelli adesso siamo? Diciamo, Equitalia ha fatto grossi passi, non per merito suo, ma per merito degli strumenti che la legislazione ha attribuito a Equitalia, e siamo arrivati intorno al 15-16%, quindi una percentuale comunque molto bassa rispetto alle aspettative, ma decisamente migliore rispetto al passato. Quindi, diciamo, Equitalia rappresenta il tentativo di superare un sistema che non funzionava. è nato questo soggetto pubblico nel 2006, penso abbia iniziato l'attività alla fine del 2006 o all'inizio del 2007. Certamente ci sono grossi problemi, molti problemi sono stati affrontati, per esempio è cambiata tutta la legislazione che riguarda la possibilità di pignorare case, fabbriche, beni strumentali, eccetera. Equitalia, diciamo, ha adottato in virtù della legge, ma anche in virtù di direttive interne, tutto una serie di disposizioni che rendono più facile l'accesso alla rateizzazione dei debiti con il fisco. Dopodiché è evidente purtroppo che in molti casi l'azione di Equitalia è stata particolarmente violenta, severa e forse anche, come dicono i 5 Stelle, spesso vessatoria. Questo senz'altro è vero, ma allora forse il problema è che bisogna partire da lì e bisogna pensare a un modello che renda l'attività di Equitalia o di chi fa quel lavoro lì, di andare poi a chiedere i soldi a chi sostanzialmente non li ha pagati quando avrebbe dovuto, perché poi anche questo ricordare. Ricordiamo anche questo. E senti, però mi viene un dubbio, no? Nel momento nel quale Equitalia ha un mandato preciso e anche degli obiettivi precisi, no? Dal punto di vista della riscossione e suppongo anche degli incassi, e il livello di incassato è basso come quello che dici tu, non c'è magari una tensione ad essere appunto vessatori nei confronti di chi riesce a far pagare proprio per aumentare l'incassato? Sì, probabilmente proprio questo è in fondo il problema, no? Il problema è che forse bisogna addirittura partire a monte dell'attività di riscossione. A me viene il dubbio che se tu accerti 100 e poi arrivi a incassare solamente 14, 13 o 15, quello che è, vuol dire che anche la prima fase, cioè la fase dell'accertamento che fa la Guardia di Finanza, che fa l'Agenzia delle Entrate, non è stata fatta esattamente in modo ottimale, in modo perfetto. Quindi Equitalia probabilmente si trova a lavorare su richieste che tecnicamente si chiamano ruoli, che forse qualche problema già ce l'hanno, ed è lì che probabilmente poi i casi di vessazione, i casi di errore eccetera diventano più evidenti e forse più fastidiosi, e ovviamente più fastidiosi per chi li subisce. Quindi è un problema che va affinata la fase in cui tu, Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza, cerchi e scovi l'evasione, la individui, fai l'accertamento eccetera, perché se quella è fatta bene anche l'attività di riscossione, tenuto conto del fatto che ovviamente poi le condizioni oggettive in cui si trovano le persone vanno considerate, perché ahimè è così, e questo periodo di crisi in fondo ce lo conferma. Però se già quel lavoro lì fosse fatto bene, probabilmente ci lamenteremo anche meno dell'attività di Equitalia. Allora io ti ringrazio, grazie a Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, ti auguro naturalmente un buon lavoro faticoso anche su questi temi, sui temi appunto di tributi, riscossione e non solo. Grazie, buonasera. Grazie, ciao. Ci scrive un ascoltatore: eliminiamo le tasse, abbiamo risolto il problema dell'evasione, grazie. Magari. Stefano da Padova, che al 349-238-6666 ci scrive, almeno è stato così fino adesso, speriamo che cambino le cose. Il problema è che il nostro Stato è vessatorio quando deve riscuotere, ma è latitante quando deve saldare i suoi debiti. Una risposta invece ad un altro ascoltatore, sempre a proposito di Equitalia, che non si firma ma scrive: ma scusate, se lo stesso soggetto che verifica ed accerta può anche riscuotere e concedere dilazioni o transigere, non sarebbe più semplice? Allora, concettualmente ci può stare, l'abbiamo detto anche un attimo fa con il collega del Sole 24 Ore, ed era anche il senso della proposta del Movimento 5 Stelle. Rimane però un problema di base e di fondo. Un primo problema era quello identificato da Salvatore Padula, che diceva: rischi di mettere in capo ad uno stesso soggetto troppi poteri. E questo è un punto, ed è un punto particolarmente importante in Italia, dove ci sono certi settori della nostra burocrazia che hanno effettivamente sono molto potenti, per così dire. Ma l'altro problema sta alla base. Perché? Perché lo Stato, tu hai un governo che sostanzialmente ti dice: quest'anno io devo trovare questo tot di evasione e riscuotere questo tot di evasione. Allora, quando hai il tuo vertice politico che ti dice questa cosa qua, che tu sia l'Agenzia delle Entrate, che tu sia Equitalia o sia Pinco Pallino, non importa, perché questo è quello che devi rispettare, è il tuo mandato, il mandato che hai in quel momento. Quindi cambiare soggetto senza cambiare le regole, senza cambiare l'impostazione, appunto anche di agi, more, tutto quello che vi pare, serve oggettivamente a poco. Così come senza cambiare il sistema fiscale nel suo complesso e le sue complicazioni, che spesso portano a una visitina dell'Agenzia delle Entrate o di Equitalia, anche senza motivo, cioè anche se non si è degli evasori, anche quello evidentemente conta. Infine, non so che cosa voglia dire, si spieghi l'ascoltatore che dice: caro Spezia, anche voi avete preso una brutta piega. La borsa. Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Ciao, buonasera. Ciao Simone, buonasera. Allora, le borse oggi hanno tentato il rimbalzo, sono arrivate a guadagnare addirittura 1,5% in certi momenti della giornata, e poi alla fine la chiusura è quasi sui minimi, direi, no? Sì, certamente è stata una giornata abbastanza volatile per le borse. La questione portoghese tiene banco, e certamente non hanno convinto fino in fondo le rassicurazioni arrivate dal governo di Lisbona, così come da parte di Banco e Spirito Santo, la banca nella bufera ieri e in questi giorni per la sua situazione finanziaria. Quindi il mercato, diciamo, ha parzialmente risposto alle rassicurazioni con indici europei piuttosto piatti. Milano ha fatto un po' meglio, ha guadagnato lo 0,6%. E del resto era la borsa che aveva fatto peggio ieri, quindi insomma, no, nell'ambito di un rimbalzo mi sembra che ci stesse pure. Allora, positivi bancari in questa giornata, come era prevedibile, in gran parte positivi. Particolarmente bene vedo le popolari di Milano +3,11, Emilia Romagna +2,02. Sì, sicuramente è successo quello che tu dici, a parte UbiBanca e Banco Popolare, che poi soprattutto nel finale hanno un po' corretto e finito sotto la soglia di golleggiamento, quindi negativo. Sicuramente la Popolare di Milano ha guadagnato oltre il 3%, è stata la migliore, così la Popolare dell'Emilia Romagna +2%, ma anche altri istituti si sono parzialmente riscattati dopo le performance di ieri. Un andamento che ha un po' interessato anche il resto d'Europa, dove i bancari sicuramente sono stati uno del settore insieme agli utility, cioè ai servizi pubblica utilità, così in Italia, così in Europa, e nel Snam e Terna sono state sicuramente tra i titoli che hanno segnato i rialzi più significativi. Questo per quanto riguarda appunto il quadro complessivo. Mi dicevi di Enel, insomma, Enel, ci sono anche notizie che la riguardano direttamente, no? Beh, da qualche giorno, da qualche seduta che c'è molta attenzione rispetto alle dismissioni su altri mercati, in particolare dell'est europeo. Questo è arrivata una conferma ufficiale con il CDA di Enel, che ha dato mandato a delle banche d'affari, dei consulenti, di portare avanti i processi di dismissione su due paesi, cioè in Slovacchia e in Romania. Chiaramente il mercato è attento a queste dismissioni, porterebbe una riduzione del debito per Enel, e quindi premiano queste notizie e la conferma dei rumors delle scorse settimane. Allora, non male l'ascoltatore che scrive: se al momento del rimbalzo senti miau, è un brutto segno, evidentemente, come un gatto che salta. È giù invece Mediaset, eh? Sì, beh, certamente su Mediaset si sta tornando un po' ai fondamentali, segno che la raccolta pubblicitaria preoccupa di più di quanto entusiasmino il mercato le operazioni straordinarie dei giorni scorsi, Digital Plus, Telefonica, con incassi importanti sia in Spagna che in Italia per il gruppo di Cologno Monzese. I dati Nielsen sulla raccolta pubblicitaria di maggio parlano ancora a livello complessivo di un -5%, segno che il primo semestre, come peraltro già anticipato a Pier Silvio Berlusconi, sarà ancora negativo. Il mercato coglie, è molto sensibile a questa indicazione sulla raccolta pubblicitaria, ecco perché Mediaset oggi perde l'1,25%, è stata la peggiore del FTSE MIB. Siamo ancora sui mercati con Andrea Fontana di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Telecom Italia, abbiamo detto i Mediaset che alla fine ha ceduto un 1,25%, Telecom Italia l'1,20%. Beh, c'è ancora molta incertezza su Telecom, finché non si troverà una quadra sull'assetto azionario dopo lo scioglimento della holding che controllava il pacchetto di maggioranza relativa di Telecom, questo titolo è probabilmente destinato a un'incertezza, una volatilità, oggi perde l'1,2%. Le indicazioni sono tante, innanzitutto per quanto riguarda le trattative per Team Brasil, destinata secondo alcuni a finire in un matrimonio della telefonia brasiliana con GVT, che piacerebbe peraltro al mercato, ma l'indiscrezione che tiene banco è quella di Telefonica in manovra per uscire dall'azionariato di Telecom e concentrarsi sul proprio business proprio in Brasile, e questo chiaramente porta molto incertezza sul futuro azionario di Telecom, ecco perché il titolo oggi perde l'1,2%. Infine Indesit, insomma, poi ne parleremo più avanti naturalmente, e qua c'è l'acquisizione da parte di Whirlpool. È il caso del giorno, naturalmente la famiglia Narrone ha trovato l'accordo con Whirlpool per cedere il pacchetto di maggioranza. Whirlpool lancerà un'OPA sul mercato a 11 euro per azione, cioè la stessa cifra per azione a cui è venuto l'accordo con la famiglia Merloni. Chiaramente il mercato però non ha reagito in maniera troppo intensa, troppo euforica, ha guadagnato il titolo solo più 2,8%, portando il titolo a 10,83, perché il rialzo rispetto alla media del titolo degli ultimi 6 mesi, che era di 10,45, è piuttosto limitato l'offerta messa sul campo da Whirlpool, per cui insomma il mercato non ha reagito nella maniera in cui ci si poteva forse attendere per un passaggio di mano di un'azienda così importante come Indesit. Grazie Andrea Fontana di Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera, e noi vi diamo anche gli altri titoli. Il migliore sul listino, Unipolsai, un guadagno del 3,5%, si diceva la Pop Milano un 3,11%, Bere Campari il 2,03%, Popolare Emilia Romagna il 2,02%, Finmeccanica e Atlantia quasi 2 punti percentuali di guadagno, Mediolanum l'1,8, l'1,7 nel Green Power, Moncler ed Enel poco più dell'1,5%, Snam l'1,43, l'1,25 Terna e A2A l'1,14, poco sotto il punto percentuale di guadagno Pirelli e Intesa San Paolo, lo 0,7 Generali, lo 0,6 lo guadagnano Jux e Prismian, Mediobanca, Seti Microelectronics e Saipem guadagnano 0,5%, Eni lo 0,36, lo 0,2 Buzzi Unicem e Monte dei Paschi, lo 0,1 G-Tech, Tots, Fiat e Tenaris, Exor e Luxottica praticamente in pareggio, così come Autogrill appena sotto la parità, e Unicredit. Negativo anche Banco Popolare, come si diceva, Ubibanca, Ferragamo cede lo 0,34%, CNH lo 0,36%, Azimut lo 0,67%, World Duty Free lo 0,91%, e appunto Telecom Italia l'1,20%, Mediaset l'1,25%, titolo migliore oggi sul listino AF, il 5,98%, Zucchi più 5,74%, Industria e Innovazione più 5,22%, in fondo al listino Screen Service cede il 9,7%, TAS l'8,36%, Aeroporto di Firenze il 4,8% e Bastoggi il 4,52%. L'euro quota 1,3597 contro dollaro. Abbiamo parlato di borsa e vi abbiamo riferito ieri della notizia di Rotta Pharma che ha fatto marcia indietro, ha deciso di ritirare l'offerta di quotazione in borsa, l'offerta che avrebbe dovuto portarla in borsa. Nonostante le turbolenze dei mercati, invece conferma la quotazione Braccialini, che è una storica azienda fiorentina di pelletteria. L'amministratore delegato Riccardo Braccialini spiega i progetti dell'azienda a Livia Zancanera. Se hai una bella azienda e sei nel momento giusto di quotarti, secondo me il mercato burrascoso comunque ti paga uguale. Quindi noi ci stiamo pensando, lo facciamo con calma. È ovvio che magari qualche mese fa era meglio, ma sappiamo tutti come va. Ora è così, magari tra due mesi è diverso. Nel frattempo noi dobbiamo essere pronti, ecco. Certo. Quella è la cosa più importante. E il momento più opportuno per voi quando sarebbe? Il momento più opportuno è quando abbiamo l'azienda pronta, un bel piano di sviluppo che possiamo presentare al mercato e che sia eccitante per il mercato, e questo lo stiamo definendo ora, perché potrebbe essere una finestra nell'anno prossimo, potrebbe essere un'idea. Conoscete già bene le regole del mercato, giusto? Sì, siamo stati quotati siamo stati consolidati in un gruppo quotato per tanti anni, quindi tutte le regole le conosciamo esattamente, e questo è un gran vantaggio, perché per un'azienda che si deve quotare, credo lo shock più grande sia quello proprio di poter dare tutte le informazioni in maniera giusta, e questo lo sappiamo fare. Avete già parlato con Borsa Italiana, voi fate parte del progetto Elite. Siamo nel progetto Elite, quindi comunque noi partecipiamo a tutte le riunioni o quasi tutto quello che riusciamo a fare, quindi cioè, è ovvio che nel percorso ci siamo già, ci conoscono, cioè siamo, non dico di casa, per essere di casa bisogna essere quotati, ma insomma qualche volta entriamo in salotto. E avete anche nel capitale dei fondi da circa 3 anni che prima o poi dovranno uscire. Sì, è ovvio che l'exit strategy migliore per un fondo è sempre quella di quotarsi, quindi è ovvio che nel DNA c'è questa idea. Bisogna vedere se riusciamo a linkarla con i tempi nostri, con i tempi del mercato, no? Deve funzionare. Intanto voi fate parte di un settore che è sempre sotto i miei riflettori, quello del lusso. Ricevete delle offerte, avete ricevuto altre offerte da altri investitori asiatici magari? Sì, quando parliamo di moda, accessori e lusso accessibile, tutto si riscalda e noi facciamo parte di questo mondo, quindi sì, riceviamo continuamente manifestazioni di interesse, le abbiamo ricevute anche ultimamente, le abbiamo ricevute da diverse società asiatiche, e non siamo un pochino sotto pressione per quello, però la regola è sempre fare bene il nostro lavoro, fare le belle borse, cercare di vendere il più possibile, questa è la regola principale. C'è qualcosa di concreto effettivamente con questi investitori o, come si dice, vi state guardando? Ma ci stiamo guardando, ci sono state delle offerte, le abbiamo valutate, qualche d'una è ovvio che dobbiamo guardarci sul mercato, soprattutto perché noi guardiamo lo sviluppo, e per fare sviluppo abbiamo bisogno di guardarci intorno in tutti i sensi. Ma di che percentuale si tratterebbe? Di nessuna percentuale al momento, cioè è solo manifestazione di interesse che ovviamente dobbiamo guardare, cioè guardiamo le persone, guardiamo le aziende, guardiamo quali sono i reali risultati e il reale apporto può portare all'azienda, questa è la realtà. Ora magari parliamo di numeri, di business, come volevo capire come sta andando il 2014 a livello di fatturato, che investimenti state facendo, a che paesi guardate? Diciamo così, l'obiettivo dell'azienda è sempre quello di fare più possibile retail e più possibile andare all'estero, non perché ora va di moda andare all'estero, ma perché comunque nel nostro DNA noi facciamo il 70% all'estero, l'abbiamo sempre fatto, quindi non è una novità. I mercati a cui ci riferiamo di più e che stiamo esplorando sono il mercato nordamericano e centroamericano, che sono quelli che sono un pochino più elettrizzanti. È ovvio, in Cina continuano a fare sviluppo, anche se magari qualche piccolo segnale di rallentamento c'è, e continuiamo a perseverare in Medio Oriente e Russia, anche se insomma qualche segnale invece più pesante c'è. Il fatturato nel 2013 era leggermente calato, per quest'anno? Sì. Diciamo che noi stiamo facendo una grande opera di pulizia, quindi in questo momento il fatturato non è la priorità, la nostra priorità sono sviluppo e margini, quindi noi pensiamo di attestarsi sul solito fatturato, forse qualcosa di più, ma di cominciare a tagliare tante cose. Se lei pensa sul mercato europeo classico, italiano in particolare, è un mercato che soffre e che sicuramente ha bisogno di un cambiamento radicale di regole, almeno per noi. Di nuovo buonasera, care ascoltatrici e cari ascoltatori, da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms. Ce ne sono molti ancora sul tema di Equitalia. Ha ragione Andrea a ricordare, si parlava della necessità di non tenere insieme chi riscuote e chi accerta, e quindi Agenzia delle Entrate ed Equitalia. Ci ricorda Andrea che Befera è stato, ha guidato sia l'Agenzia delle Entrate sia Equitalia. Questo è uno degli elementi che può rappresentare un problema, o almeno alcuni commentatori così sostengono. L'ascoltatore che ci scrive: basterebbe che Equitalia non applicasse gli interessi sulla somma del dovuto più gli interessi pregressi, che fa lievitare a livello esponenziale le cifre. E poi dice: si vede che non avete mai avuto a che fare con Equitalia. Ma allora ha capito, anche dall'SMS che ci scrive lei, che è una questione di regole, non è una questione di nomi. Infine a Fabio, che riporta il tema su una questione più generale, ed è quella che riguarda l'evasione. Dice: forse la soluzione migliore sarebbe dedurre tutto, così quantomeno si incentiverebbe la fatturazione. Mi piace quell'incentiverebbe, perché c'è chi vede in questa operazione, che viene chiamata contrasto di interessi, la soluzione a tutti i mali. Cioè puoi dedurre tutto e quindi costringi, la dico molto semplice, l'idraulico che non ti fa la fattura a fatturare, perché più di uno studio economico ti dimostra in realtà che non è la panacea, non è la soluzione di tutti i mali. Anche perché può comunque convenire non far fatturare, molto semplicemente, specie se le tasse sono molto alte. Maurizio Castro, buonasera. Buonasera a lei. Allora, è ex direttore delle risorse umane di Zanussi, membro dei saggi di Confindustria di Pordenone su Electrolux, docente di relazioni industriali all'Università Marco Biagi di Bergamo, incidentalmente è stato anche senatore del Popolo delle Libertà. Dico incidentalmente perché la convochiamo qua in quanto persona esperta del settore dell'elettrodomestico. Naturalmente avete capito di cosa parliamo. Parliamo di Indesit. Si sapeva da tempo che stava cercando un partner, è arrivato oggi l'accordo con gli americani di Whirlpool. Il 60,4% di Indesit per 758 milioni di euro passa agli americani. Al lato di tutto questo c'è la discussione, che in parte è già aperta, un altro grande marchio italiano dell'industria che si sposta all'estero, un dibattito potenzialmente infinito, perché molti vi diranno: conta quello che faranno gli americani, non conta di chi sia la proprietà e se terranno appunto i lavoratori qua e la produzione qua. E ricordiamoci anche dall'altra parte quante aziende italiane fanno acquisizioni all'estero, si cita sempre sempre Luxottica perché è la più grande, ma pensiamo a tutte le altre, insomma, anche se vogliamo, se volete considerarla ancora un'azienda italiana, Fiat che si è comprata Chrysler, insomma, molto, molto semplicemente. Io però, Castro, vorrei con lei riuscire a mettere a fuoco il settore innanzitutto e che fase sta attraversando, perché questo è anche un momento giusto per farlo, probabilmente nel momento nel quale passa di mano un gruppo così importante, un elemento così importante anche del capitalismo familiare italiano, perché chi vende sono i Merloni. Castro, prego. Ma innanzitutto credo che un minuto di raccoglimento per la fine dell'elettrodomestico italiano va comunque fatto, un settore che aveva dominato il mondo creando leggende, miti legate a storie di famiglie straordinarie per la loro capacità creatrice, Zoppas, Zanussi, Borghi, Merloni, Nocivelli, Fumagalli, oggi definitivamente a mai nella bandiera. Non è un dato sentimentale, è un dato di politica industriale, perché se un settore che deteneva una leadership così nitida a livello internazionale in capo al nostro paese si sia sbriciolato, beh, vuol dire che almeno delle colpe di omissione certamente ci sono, e sono peraltro colpe che risalgono assai lontano nel tempo, quando nell'84 con la Zanussi in crisi solo finanziaria ma non industriale si preferirono i litigi tra gli Agnelli, Merloni, De Benedetti, e si cedette quel colosso ad una piccola allora azienda baltica, beh, probabilmente si compì un errore le cui ricadute si pagano ancora oggi. Comunque è chiaro, ha ragione lei, che il settore mondiale dell'elettrodomestico è in straordinaria ebollizione. C'è un player, Samsung, che ha deciso che il parametro dimensionale cambia per vincere questa competizione globale. Whirlpool accetta con solidità strategica e con coraggio strategico la sfida e decide di crescere proprio in quell'Europa che è una delle sue due roccaforti, gli Stati Uniti, dove è già fortissima Whirlpool, decide di diventare la prima in Europa a costruire una sorta di fronte occidentale dove resistere a Samsung e all'irruzione potenziale dei nuovi player asiatici. Il fatto che i cinesi di Shandong, che probabilmente erano i cinesi sbagliati tra tutti i cinesi possibili, non siano stati ammessi a costituire per primi una piattaforma industriale in Europa, significa che probabilmente in Europa si gioca la battaglia decisiva, Whirlpool vuole giocare da protagonista e con l'acquisto di Indesit ha fatto una mossa molto azzeccata e che credo potrebbe rivelarsi più positiva di quanto oggi molti non tendano a credere. Ottimo spunto da un SMS al 349-238-6666 di un ascoltatore che dice: avete voluto la globalizzazione, mo tenetevela, anzi teniamocela. E sa qual è il problema? Il problema è che ci sono grandi e piccole aziende, anche italiane, che la globalizzazione hanno saputo cavalcarla alla perfezione. E allora io voglio capire da Maurizio Castro perché il settore dell'elettrodomestico non c'è riuscito. Prego. Ma non c'è riuscito perché, parlo evidentemente dell'elettrodomestico italiano, perché non è riuscito tempestivamente a impostare e realizzare una strategia di riposizionamento competitivo a presidio dei segmenti più pregiati dei mercati internazionali, investendo su marchi premium, e non lo ha fatto perché in qualche modo ha scontato una arretratezza tecnologica che non è ancora stata superata. Se lei pensa al frigorifero degli anni 60, il frigorifero Fiat, quello con i bordi arrotondati, e alla Fiat 500 che accompagnava il boom italiano, beh, la 500 oggi è un'altra esperienza, non solo tecnologica, anche sensoriale, anche funzionale. Il frigorifero è rimasto un armadio che fa freddo, quindi c'è un notevole ritardo di innovazione sul prodotto e questo ha determinato lo spostamento del terreno del confronto competitivo sul costo, e sul costo noi siamo destinati a perdere. Così come negli ultimi 5 anni abbiamo perso la metà della nostra produzione di elettrodomestico, siamo sdrucciolati malamente da 36 a 18 milioni di pezzi in soli 5 anni, e 35 milioni di pezzi oggi la produzione annuale della Turchia, e si sta avvicinando persino la Polonia. Certamente poi ha influito anche la disattenzione delle politiche industriali nazionali, l'elettrodomestico è stato da un lato considerato un settore troppo sicuro per poter essere minacciato, dall'altro come dire ancillare rispetto all'auto e rispetto ad altri, e non si comprendeva invece che per la sua quota di export, per la sua quota di occupazione, per la sua anche quota, come dire, nell'identità culturale del paese, era un settore strategico. Quindi tre cose: incapacità di cogliere la necessità di riposizionarsi, incapacità di cogliere la necessità intensissima di innovare per davvero il prodotto, e qualche sciatteria da parte del sistema. Ovviamente accompagnato poi alcune strutture di costo, pensiamo al costo del lavoro, per non dimenticare l'ultima lacerante a vicenda Electrolux, dove sì, qualche ragionamento Sì, ce lo segnala tra l'altro questo anche un ascoltatore, facendo la battuta, dice non c'è riuscito perché dovrebbe pagare i dipendenti 400 euro, però è vero anche Castro, molto brevemente, che questo poi è relativo, perché quando tu riesci a fare un prodotto di alta gamma e di alta qualità, come ci diceva lei, insomma, no? E a fare un prodotto estremamente innovativo, tutto sommato sul mercato ci riesce a stare, nonostante l'Italia sia l'Italia, no? Beh, Bosch è tedesca, ha perso davvero assai poco come complessive capacità produttive, realizzazioni produttive, è molto agile, molto dinamica, ha investito sui marchi primo, ha investito più degli altri su innovazione. Bosch dovrà rivedere la sua strategia alla luce dell'irruzione di Whirlpool nel mercato europeo, ma Bosch oggi è vincente, oggi Bosch è il numero uno. Se fossimo stati più bosciani, probabilmente saremmo riusciti a fermare una deriva che oggi appare in tutta la sua desolata devastazione. Quindi più tedeschi, no? Come sempre, come cose. Forse saremmo di essere bravi più americani. E forse saremmo in finale ai mondiali domenica. Vabbè, grazie. Grazie a Maurizio Castro. Grazie a voi. Ex direttore di risorse umane Zanussi, ex senatore PDL, tantissime altre cose, docente di relazioni industriali all'Università Marco Biagi di Bergamo. Buonasera, e noi passiamo a parlare di terzo settore in chiusura. Arriva la riforma. La riforma per il terzo settore, che conta 235.000 organizzazioni non profit, pari al 5,4% di tutte le unità istituzionali, 488.000 lavoratori, sono dati Istat, pari al 2,5% del totale degli addetti e 4 milioni di persone coinvolte, naturalmente in veste di volontari. Cosa c'è? C'è l'introduzione del bond di solidarietà, meccanismi di finanza sociale, per così dire, 5 per 1000 stabile, oggi ancora da finanziare ad ogni legge di stabilità, invece diventerà permanente, prevista l'introduzione di una tassazione che tenga conto delle finalità solidaristiche delle onlus, ma anche del divieto di ripartizione degli utili. Servizio civile, l'abbiamo raccontato in tutte le salse. Verranno studiate forme per accelerare l'assegnazione di immobili pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. E poi ridisegnata la disciplina delle società che operano in questo settore, con ampliamento dei settori di attività e forme di remunerazione del capitale sociale. Saluto la nostra collega di Radio 24, Valentina Furlanetto. Ciao Valentina, buonasera. Ciao Simone, buonasera a tutti. Ti abbiamo strappato alle ferie in quanto autrice dell'Industria della Carità, un bel libro uscito per Chiare Lettere, che vi consiglio, andatelo a prendere, leggetevelo, nel quale indaghi esattamente in questo mondo. Io vorrei prima di tutto a te un breve giudizio su quello che hai letto e che abbiamo visto finora. Naturalmente anche qua i testi ancora non ce l'abbiamo, però insomma stiamo a quel che sappiamo. Sì, è in divenire, però insomma, per quello che si sa, innanzitutto è positivo che sia stata fatta una riforma finalmente, quindi che Matteo Renzi abbia mantenuto una promessa che lui stesso aveva fatto, ma insomma il settore aspettava questa riforma da anni. Un giudizio, sai, ci sono luci e ombre, alcune cose sono molto interessanti, ad esempio il fatto che sia nella riforma che nelle parole di Renzi un paio di mesi fa al Festival del Volontariato ci sia proprio un focus molto forte sulla esigenza un'esigenza di trasparenza del settore, perché forse tutti non sanno che gli no profit in generale ha l'obbligo di scrivere un bilancio economico, ma non di renderlo pubblico. Ad esempio, questa era una cosa che il libro che tu citavi, l'Industria della Carità, sottolineava, il fatto che questi enti, le onlus, anche blasonati, non pubblichino sempre online il bilancio economico. Io donatore devo sapere, insomma, dove vanno a finire i miei soldi. Adesso, ad esempio, giusto, per la... insomma. Sì, è il minimo, no? È il minimo, sì, che si chiederebbe, e molti danno per scontato che sia così. Invece anche l'opinione pubblica in questo è abbastanza così all'oscuro del fatto che non è obbligatorio per ora pubblicarli. Poi sarà obbligatorio almeno per accedere al 5 per 1000, che, come tu dicevi, verrà stabilizzato. Poi viene rivisto l'accreditamento al 5 per 1000. Questo è molto interessante, perché, come molti forse sanno, ma alcuni forse no, al momento accedono al 5 per 1000 anche non solo enti caritatevoli, ma ad esempio i circoli del golf, no? Nell'ultimo bonus 5 per 1000 ce n'erano 75. Certo, poi ci sono dei meccanismi un po' strani che rimangono. Ad esempio, lo stesso 5 per 1000 è un meccanismo per cui più tu sei conosciuto, più probabilmente ci sono persone che devolvono il 5 per 1000. Quindi probabilmente ci sarà un meccanismo perverso, almeno questo è quello che alcuni critici anche della voce.info, anch'io nel libro, sottolineavamo, il fatto che poi verrà spinto sul pedale dell'acceleratore del marketing, no? Quindi le associazioni che spendevano un po' in pubblicità spenderanno probabilmente un po' di più, e sono soldi dei donatori, per poi farsi conoscere, avere altri soldi. Insomma, questo meccanismo perverso che qualche volta, un po' quando l'interesse per il marketing diventa superiore a quello per i progetti, insomma, stride un po', no? Poi quello dell'authority, verrà istituita un'authority. Simone, sappiamo, l'authority è importante, dipende dai poteri che gli dà. Allora, Valentina, siamo quasi in chiusura. Possiamo dire il classico è un primo passo? Ma certo, è un passo importante, mancano tante cose. Un'altra che non ho detto è il contratto specifico per i lavoratori del settore. Per ora il settore soffre di un'estrema precarizzazione, ad esempio. Allora, grazie alla nostra Valentina Furlanetto, grazie a voi, buona serata. Autrice dell'Industria della Carità, edito da Chiare Lettere. Grazie a Valeria Bernardi in regia, grazie a Barbara Bianchi in assistenza in redazione, e a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, una buona serata. Radio 24, la passione si sente.